capitano. Lo stavo guardando ieri il tuo tetto. Si vede il fumaiolo, però è spiovente, è un tetto spiovente, non è di qui la terrazza. Sì, sì, però dall'altra parte c'è uno spazio, capito, dove ci sono le antenne, capito, già. E quindi spero lì di poter mettere, insomma, qualcosa. Io l'ho visto l'entrata di via Pulizzetta, lì stavo salendo lì e ho guardato, lì ci abitava mia suocera prima, dove c'è la farmacia, col palazzo lì. Sì, sì, diciamo che è un posto frequentato, diciamo, la mia via qua, è uno snodo che c'è un po' di tutto, farmacia, bar, capito? Quindi c'è sempre il passaggio di gente qua. Sì, sì, sì, è una bella zona, poi c'è anche il mercatino, quando viene dal mercatino, fare il mercatino lì dove c'è quello spazio dove mettono le macchine, lì di fronte alla scuola, c'è il mercatino, non so quando lo fanno, non mi ricordo più, ma quello lì portava addirittura la frutta a casa mia suocera, perché vedeva che erano anziani, gliela portavano loro. Sì, sì, sì, mi stavo guardando la stazione di Claudio. Hai visto come è organizzata? Sì, sì, infatti ti stavo rispondendo perché c'ho WhatsApp anche sul telefono, sul computer. Più che così non potevo fare perché sono tante. E quella è una parte. Le altre ce le ho in uno scaffale a tre piani, che sono quelle appunto che stavo provando per vedere, insomma, se ce n'erano che non funzionavano, ma funzionano tutte, una non accende, ma vabbè, può capitare, mai c'è qualche fusibile mezzo andato. Infatti l'ho messa da parte, domani la controlla se ogni voglia. Gianni, riprendi tu che faccio una telefonata a mia mamma, sennò poi si addormenta e non mi risponde più. Ciao. Ci deve essere portato, magari aspettate un attimino. Ma lei sta cambiando il radio, lui quando non risponde vuol dire sta cambiando il radio. Datemi 5 minuti Carlo, devo fare una telefonata. Tranquillo, vai pure Claudio, tanto anch'io sono qua sulla scrivania computer, qui. Sono in ascolto, appena rientra Gianni già chiama. No, io ci sono Carlo, sono qua. Mi hanno spostato 5 minuti. Ah sì sì, bene bene, infatti Claudio dice magari sta cambiando radio e quindi sta scollegando e ricollegando e quindi qua ha fatto un attimo di bianco. E niente, tutta bella ordinata la stazione di Claudio, ho visto, c'ha una L spettacolare con tutte le apparecchiature, mamma mia cammina. Sì, già l'ho vista, se me l'ha mandata su WhatsApp. Sì, sì, anche a me, infatti la stavo guardando, poi ho ingrandito col computer a tutto schermo, tutte belle, radio di tanti anni di passioni, per avere una cosa del genere, se non c'è la passione non puoi avere tutte queste cose. E allora se vedi quella di Walter, quante ne ha, quello c'ha il museo proprio, c'ha praticamente tutto un piano con le vetrine, tutte piene di radio, in terra, da tutte le parti. E anche una bella spinta di microfoni da tavolo, qua ne vedo 5 tutti allineati. E di navi pure. Ma io prima già mi Claudio diceva compro, vendo, scambio, io che si compra questo, c'è sempre i gruppalenti là qua. Lo so. Che stavo rispondendo a un messaggio di mia figlia Aisha. Ah no, mi ha mandato l'immagine di mia figlioccia piccolina, ha compiuto appena un anno e l'ho battezzata, adesso non mi ricordo se era a maggio a Roma. Siamo andati al Vaticano nella chiesa di Sant'Anna dei Palafrenieri ed è dentro le mura vaticane, capito? E l'ho battezzata io, da padrino, e poi la madrina era la sorella della mamma, che è la compagna di mio nipote, figlio di mia sorella, capito? Ah, ecco. E fanno entrare, pensavo che fosse a porte chiuse il Vaticano. No, perché il padre di questa compagna di mio nipote ha lavorato lì tanti anni, capito, al Vaticano, quindi ha delle conoscenze e quindi si le guardie svizzere, capito? Sì, sì, l'ho visto io. A Roma sono andato 4-5 volte. Mi piace molto Roma. È bello, il giorno che siamo andati noi, mamma mia, c'era una marea umana di gente, perché c'è il giubileo, capito ancora. Tu dovevi vedere la marea di gente. Guarda la mia stazione in notturno, adesso io sto volando così al buio, con la luce blu e tutto. Questa qui è la mia stazione in notturno. Scusa solo un attimo, già sto rispondendo a mia figlia, dammi solo qualche attimo. Stai tranquillo. Gianni. Ehi. Sì, ho visto adesso le foto che mi hai mandato. La tua stazione l'avevo vista, io ero venuto a casa tua, me l'avevi fatta vedere, c'è quel mobile bello in camera che lo apri e ci sono tutte le radio. Non mi ricordavo, Carlo, sì, sei venuto, me lo ricordavo, però che te l'avevo fatta vedere non mi ricordavo più. La vedi quella che c'è sotto, proprio l'ultima, che è a fianco all'alimentatore. Quella lì è il Magnum. È una super radio che non fanno più, ma costava 700 euro quando la vendevano, 700 mila lire. Lo so, bella, bella. E l'altra, quella che c'è al centro, è quella che avevo fatto aggiustare io da, come si chiama, a Borore. Il Galaxy. Il Galaxy, sempre andando sta Gianni? Sì, grazie a Dio sì. No, quello già è troppo, capito, come l'ha visto, ha detto non ti preoccupare, questo neanche lo torna a passare, mi ha mandato il messaggio, trovato già l'equipo e come arrivano i finali, quelli originali che ti ho chiesto, come ti arrivano me li fai avere, come glieli ho portati, ero arrivato all'altezza di Campera e mi manda il messaggio, radio riparata, il video, incazzo, ho detto subito ti sei messo, dice un attimo a cambiarli. Ho detto guarda ormai sono a Bonorva, se mi dai un attimo un'oretta torno nella e passa anche tra 2 ore, quindi ero passato, l'avevo ripresa subito, nel giro di un paio di settimane mi erano arrivati i pezzi e poi l'aveva riparata, però per me era, avevo stato limitato, quindi era giusto che te la riprendessi tu, capito già. Se ti dava fastidio, io c'ho proprio lo spazio giusto nel mobiletto, c'ho lo spazio, capito? Certo. L'avevo fatto proprio per metterci il Galaxy, questo qui veramente. Poi ci ho messo anche le altre cose, ci ho messo le luci blu la notte per fare la modulazione notturna, eccetera. Vabbè, no, comunque è piccola la mia stazione, ma sono tutti performanti gli apparecchi che ho, vanno tutti bene. Sì, e mia figlia mi ha detto che sta passando tra 5 minuti, quindi se poi faccio un attimo di bianco non mi sentite perché sono andato ad aprire, quindi che non so che cosa mi deve dire, perché il 1° di novembre è il suo compleanno, quindi sta organizzandosi la festa, capito? E niente, quindi adesso vediamo un po'. Io lo faccio il 20 di ottobre. Vabbè, magari vuole organizzare insieme a te, cosa? Meglio tenersi di cari i figli. Eccomi qua, scusate, ma era al telefono con Mamadou. Mamadou, mia mamma non incrocia oramai, 94. Papà è morto che ne aveva 96. Lei ancora già risponde al telefono, ti chiama, fa, è che non si muove più, poverina, non si muove più, però l'importante è che mangi e stia bene, non è un problema. Ci avete qualche badata? No, casa portoghese ci abbiamo venduta già, però già, no, io l'ho portato a parte mia, e poi la parte 18, vabbè, quella era di 5. Abbiamo venduto con lo Torres, venduto, mia mamma è ad Alghero. Ad Alghero, ma qualche istituto? Sì, allora, Alghero Fertiglia, c'è mia sorella, c'è la casa sua anche lì. Ho capito. No, pensavo qualche istituto. Hai a casa di tua sorella? Sì, casa sua. Che vabbè, dai. Almeno c'è qualcuno che l'assiste. Cazzo, stamattina mi sono alzato qua e non mi reggevo in piedi, me ne andavo da una parte all'altra, mi stavo come se fossi ubriaco, mi sbattevo da una parte all'altra. Poi come mi sono riattivato un po' mi sono ripreso. Doveva essere roba di labirintite oppure altro di cervicale. Cervicale è già quella, anche mia moglie l'altro giorno era così, si è alzata ed era a capogiro, siccome soffre il cervicale, con puzzirosa, il cervicale fa così, mamma mia, vabbè, è così, è così. No, già io ci ho provato in tutte le maniere, ho provato iniziato da voi, eccetera, del piano di sopra la mansarda, ma mia moglie non ci veniva, mia figlia manca a parlarne. Allora, gli ho detto, boh, vediamo tutto e c'è la buglia luce, non me ne frega più niente, e così abbiamo fatto. Ma quella dove abitavi prima, quella di via Milano? No, via Milano, sempre via Porto Torres, sto dicendo, la casa di Porto Torres. Dove abitava tua madre? Porto Torres, c'era una palazzina qua sua, praticamente sotto c'era il affittata, c'era Antonello Pintato, non so se l'hai conosciuto tu, è un altro tecnico. Sì, sì. E c'era Codino, c'era, sono andato a trovare lì. Sopra abitava lei e poi sopra c'era la mansarda, sempre abitabile, capito? E ho venduto tutto già arrivai. Nessuno ci voleva andare, io ho provato, ma mia moglie no, non ne voleva sapere di andare a produttore, se mia figlia lo stesso, allora ecco io. Pazienza, se no io mi sarei andato lì, tranquillamente. Ma sarei andato lì perché mi piace, però quando c'è la famiglia che dice di no, bisogna anche mettere appresso la famiglia, e allora ci abbiamo fatto i soldi. Vabbè, interessante che abbiate fatto quello che volevate. Purtroppo non sono tutti che si adattano a spostarsi e cose, quindi oramai sono a Sassari, quindi come a me, se tu a me mi hanno detto mille volte, perché non ti prendi la casa a Porto Torres? Risparmi in benzina, risparmi in macchina, risparmi in quello, risparmi là. E cosa mi la voglio fare? C'ho tutti gli amici a Sassari, c'ho tutte le appoggi a Sassari, e cioè non mi piace, perché poi finisco tardi a lavoro, un casino, dai. Invece prendo la macchina e mi cambio, esco con gli amici qua, me ne vado per dire a mangiare una pizza, faccio qualsiasi cosa. E lì a Porto Torres sì, le conosco di gente, ma non a livello di amicizia, cioè ciao ciao e basta. No, devi fare tutto a capo, infatti quello che ha detto mia moglie, la stessa cosa, è così, devi fare tutto. Poi vabbè, mia figlia adesso, vabbè, mia figlia non c'è più con noi, si è preso la casa sua e per i fatti suoi, però anche lei dice, ma papà, vengo a Palottone, sei con voi e devo viaggiare ancora, è una vita che viaggio, ma ancora viaggiare, andare e tornare, andare e tornare, io non mi muovo la sassa, e così abbiamo fatto. La madre era d'accordo, dice, vediamo, vi prendete i soldi e basta, e io me ne vado all'Alghero, e così abbiamo fatto. Tranquilla, più serena, c'è mia sorella lì che la gestisce, la fa, quindi no, meglio di stare da sola a Porto Torres. Carlo! Sì, è arrivata mia figlia, ho sentito là, un attimo di bianco per me, continuate pure, poi nel caso ci sentiamo dopo, dai. Infatti dicevo quello a Gianni, a più tardi che ci sento, se no salutoni, dai, già lascio comunque acceso, abbasso un po' il volume e sono dentro un attimo. Ah, Paccaro, non ti preoccupare, dai, perché ti ho salutato, se non rientri, niente, avanti. Ciao, ciao, Carlo, non lo so, sono già le 7:30, io poi, 8:15, vado a vedermi un TG e poi non accendo più, anche tu già hai già portato il cane. No, le 8:15, lui si è... Ah, vai cucando, tranquillo. Poi alle 8:15 in punto viene, e lo devo portare, vabbè. Oramai, per me è una una cosa buona, perché mi sprona a uscire, mi sprona a camminare. Se non avessi a lui magari me ne sarei a casa. Già tu, ma è quello che mi manca, capito? Ma già cammino stamattina, io c'ho anche a camminare lo stesso per fare scene, poi ho fatto un po' di commissioni, sono già fuori da niente e tutto. Ma io oramai poco fa è uscito, 10 minuti fa, ho aperto la porta, è uscito in giardino, ho fatto i bisogni, lo pulisco e basta. E se ne è rientrato dentro già con il carto, allora si scende dove la mangiare. Se non si sveglia la notte, a volte si sveglia, si fa un giro, poi si ricorica. Vabbè, ormai è contro giù, io avanti a tu. Hola. Se io avessi avuto la possibilità, sicuro che me ne era andato a Porto Torra. Saresti andato? Sì, a me piace, ma poi io non ho molte, non sento molte distinzioni, capito? Non me ne frega niente. Lo so, però sai, quando c'è la famiglia che non è d'accordo, cosa fai? Non è che poi, cioè, come chiamano, me li sono a casa con le portoce, con i piani, e tutto, e addirittura mia madre voleva rimanere lì, ma io rimango qua e tu ti prendi l'appartamento di sopra, così sono tranquilla e ci siete voi e non vado da nessuna parte. Poi c'era troppo sola, capito? Anche se c'era la barante per la notte, c'era una dalle 9 sino alle 8 dell'indomani e l'altra invece dalla mattina fino alle 8 la sera, quindi cioè di là lampadi e tutto, capito? E perciò abbiamo deciso così, ma sta bene anche lei, sta meglio anche lei. Però la mia famiglia ha detto di no, e allora ho detto vabbè, se no, infatti ho detto anche a mia figlia, tu ti rimani qua, dove sono io, noi ce ne abbiamo un portoce, no, la casa è troppo grande, la sola, devo gestirmi il cane, devo fare, non ce la faccio, e io ho detto allora, io altro vi posso fare, arrangendovi, e basta così, finiti i giochi. Tu che sei portotorrense? Nome Porto Torres, da dove proviene? Torres di Bisogni. No, e visto la torre aragonese, la usavano per controllare le navi che arrivavano in mare, e tra mare e torre, Torres, Porto Torres, il porto della torre. Io pensavo tu di Bisogni. Sì, quello già lo so, il secondo in Chivi e via Libero, già lo so, quella torre, grazie, tu lo stesso già l'hai conosciuta, l'hanno rovinata, l'hanno intunicata, l'hanno rovinata, quella è tutta la rittoria, è tutto l'intonaco, era tutta in pietre, a vista, per carità, l'ho fatto uno schifo. Io ci sono anche entrato in quella torre, sono entrato dentro quando c'erano... praticamente avevano fatto una giornata dove c'erano tutti gli elmi e i vestiti che usavano per combattere, eccetera eccetera, c'erano tutte le corazze, gli stivali in ferro, tutte queste, c'era l'esposizione, sono andato a vedere. C'eravamo la sede dei Cimilli a Porto Torres quando ci hanno sfrattato dall'ex deposito della Shell, il comune di Porto Torres, c'era di Annibale Francesconi, allora sindaco, fatti il conto di quanti anni ti sto parlando, ci aveva dato la torre aragonese a noi. E già me lo ricordo, io su tutte le sedi dei Cimilli ci sono stati, dove c'era l'Avis, sono stati lì alla torre aragonese, sono stati all'Arena Rita. Certo che sì, certo che sì, lì dove c'era il deposito della scelta, avete detto anche quelli che diventerà, cosa, come si chiama, pastore, come si chiamava quello, Eliseo era il presidente, infatti era, quando è morto l'avevamo intitolato a lui, Radio Club, CB Porto Torres ed Eliseo Runciu. Sì, tu immagina che quando hanno aperto quella di via dell'Arena Ridda, non so so se ti ricordi Fernando, quello che aveva i baffi, che stava a satellite, che adesso è morto, che faceva l'autista di camion. Ehi, Fernando Spadaccino, era collega di Bartolomeo Tisiel. La radio glielo fornite io a loro, capito? Glielo vendute per la sede, la radio, un baracchino, un alimentatore, un'antenna. L'hanno usato per mettere in sede e gli ho regalato anche un microfono amplificato, te l'ho regalato io questo. Ehi, Nagio Bosco, sono Bacchini. Io, Francesco Muresu, Delfino Bianco, Cosu Salignoro, Fortunato Affetta. E abbiamo messo in roba quel botto, poi voglio non so che roba. Che fine abbia fatto da quella roba? Non lo so. Ascolta, Antonio, una curiosità invece, poi riprende Antonio. Ma Gavina, la moglie Domenico, morta era? Io oramai ho perso i contatti, là. Ho perso i contatti, ci manco 5 anni da Porto Torres, sembra un giorno, ma ci manco 5 anni. Ho perso un po' i contatti con quella gente, non lo so, non te lo so dire. Perché di solito quando vedo su Facebook che mettono i necrologi, sai che adesso li stanno mettendo su Facebook i necrologi, quando li vedo lì vedo gente che conosco, sono di Michele, l'ho saputo da Facebook, l'hanno messo lì, mi va la di Orio che andava giù, mi spavaraccio. Mi ricordo sempre, si avvicinava, già te ne servono polpi, te ne serve pesce. Ora lì è giunta la Giulietta. Oh già, sorelle le vuoi, cazzo la Giulia a 4, un altro mi guida. Sorelle due, la Giulia a 4. Vabbè, perché era mitico, perché ha fatto le elementari con me. In classe con me, Michele, ha fatto elementare, dalla prima alla quinta elementare, alla scuola con me, poi si era ritirato, lui, io ho continuato nella scuola, lui si era ritirato, c'aveva solo la, non so se poi se l'aveva presa la terza media, boh, non lo so, no, perché ho visto Francesca da poco, di sfuggita, lei non mi ha visto, e mi sono ricordato la mamma, che una volta mi aveva detto di passare a prendermi il tenco di Domenico, capito? E fa pure, però beh, ma è matto Giorgio, dai, cazzo, c'avevo la radio vuota e faccese, è entrato Roberto Quadrato, la matta di Nimai, vieni qua e invece stare lì a chiamare, guarda, rotondo, cazzo di... E mi ha detto di passare a prendere quella radio, c'era Domenico, il tenco 46T, che non accendeva, capito? Ma io ho le valvole di quella radio perché sono uguali a quella che ho io valvolate, per quello che l'ho chiesto. Non lo so, non l'ho più vista, non l'ho più avuto modo di... Te l'ho detto, non lo so solo quando li vedo su Facebook. Avanti, chi ti ha mangiato me un fiendim? Ho letto, la foto, ti ha fatto spaventare Roberto. Con quella voce da orco che c'ha, cazzo. Ma io tengo sempre il volume, adesso l'ho abbassato. Aspetta. Se riconosco lei, ce lo tengo sempre. Sia che mi chiama qualcuno, invece lui ha chiamato. Ma già entra qua adesso, non ti preoccupare. Io apro in pietra, ma gli faccio... C'è una 48, ma guidate in camera da letto. Hai capito? No, avete parlato in due con Antonio, cosa hai detto? Che ci sono sceso in un fosso a prendere niente l'altra notte, non ho notato niente, poi mi si è sgonfiata la gomma, sono andato a vedere se era bucata, e c'è una perdita dal cerchione, quindi ci vuole cerchione e copertone nuovo. E non l'hai fatta le foto? Che foto faccio? Voi di notte ho accompagnato la ragazza di Marco all'impunti. Sono passato da dietro il mercato all'ingrosso lì, c'è una voragine deve essere, perché ha fatto un boom, cazzo di azzocca, tornava, e poi vabbè sono andato, guardo se stava andando dritto, il volante andava dritto, ho detto vabbè dai, meno male non gli ho fatto nulla. poi piano piano esce una bollicina ogni 5 secondi, tic tic tic tic. Adesso ho fatto un tentativo, ci ho messo tra il cerchione e il copertone, ci ho messo una goccia di silicone, voglio vedere se riesce a tappare. Guarda se ti piace questa, cosa? Se ti piace questa di modulazione è normale, sì, già va bene. Ma l'altra più forte, quando uscivi più forte. Guarda a vedere che mi ha baciato il microfono, Vito. E quel microfono vuole aperto, tu ho messo un po' di CRC nel coso, nella portante, PCT e basta, tutto lì, e quello lì è sporco, bisogna dare una soffiata, mettergli spray per contatto, cioè dici, io ho provato con lo spray per contatto e una volta lo faceva lo stesso, ci ho messo il CRC, non l'ha più fatto. Scappa. Adesso è l'MB più 4 con l'ANA 48. È lo stesso micro? No, questo è l'MB più 4 con l'ANA 48. Aspetta, mi ha suonato la porta. Scappa. Ma è riduttato, lo vedi, l'altro vedo quanto precise sono, cazzo, un orologio. Poverino, se non devi uscire a quell'ora devi uscire, vai poi da a Gittano, vai già, tanto anch'io fra un po' me, aspetto che rientri Antonio, poi saluto e vado a vedermi un telegiornale. Dai, quando rientra Antonio saluto e poi vado via, dai, mi sta guardando come gli hai un muoviti. Si conferma, insomma mi fa morire quello, ma lo guardi Montalbano? No, io non sto guardando più televisione, guardo il telegiornale, qualche programma tipo la rotta della fortuna, roba così, ma non aggiù più canali che abbiamo da filo, mi trovo. Lui, anche io non è che, no Montalbano già lo guardo, ieri me lo sono perso. C'è mia moglie, c'è proprio il tuo grande fratello, che palle. Le donne guardano queste cose, le telenovelle, mia moglie guardava, come si chiama, Beautiful, tutte quelle telenovelle che non finiscono mai, ci sono anni e anni, sono cresciuto io con Beautiful. Allora, come coso, di Alghero che chiamano Falcane Beautiful. Ah, poverino, sì, che simpatico che era lui, le risate che ci siamo fatti, era di lui, io mi giravo, Natalino ce l'aveva di fronte, quindi gli rideva in faccia, io mi giravo e non mi vedeva, mi faccio la Natalino e la cosa è a Luca. Lui è troppo togo, era, è simpatico pure. Quando siamo andati a cena con Franco e mia moglie, Franco, che così da poi ci conoscevamo bene, c'è il cazzo, allucinante, si era dimenticato di togliere il pane della frizza, cazzo l'ha scongelato per un po'. Ecco, lui non ha fatto così, siamo andati a prenderlo per andare in pizzeria, eravamo in greffa, io fino a vedi che andiamo in pizzeria, no, voi non vi muovete da qua, vi metto io a cena, a me mia moglie ha fatto i porcini proprio stasera, cazzo, vi faccio i porcini, oh, cucinava un bel bene, era un bel bravo a cucinare, e la gamba di rubare, quando l'avevo visto con un po', gli ha risato. E quello poi la birra caccarata e con il ghiaccio 30. Chiaro, quanto le combinano piace, per carità, io ho le radioline sue, che ho passato a prendere la moglie, ho detto passa a prendere qui e là, poi abbiamo fatto vendere l'HF, il K, l'abbiamo fatto vendere, perché c'erano già le radioline, io non faccio niente, non ti dai a me, rimane lì, no, cioè, te lo vendo, trovato un amico e l'ho venduto. Allora ci hanno fatto un po' di soldi, però ne guadagnava troppe, cazzo, a volte mi faceva morire, a volte siamo rimasti chiusi, fuori, ha dovuto chiamare un amico, scusa, chiamo i pompieri, no? Salta, no, faccio troppo casino, vedono i pompieri, poi si preoccupano qui, cosa è successo. Diciamo, un amico che lavorava all'Enel, c'era questa camionetta con tutte quelle scale di legno sopra, ne ha portato 3 o 4, ma una scimmia, si è appeso ed è saltato dalla parte, ti ricordi che c'aveva quel giardino dietro, ha saltato dal terrazzo al giardino perché quella porta era sempre aperta per il cane. Sì, quello che c'aveva l'edera finta per non far vedere che c'era la porta, ma non ricordo benissimo. Ha saltato dal terrazzo e poi si è calato dentro il giardino perché lì chiudeva quella porta che c'era con l'edera finta, però la porta di casa era aperta, capito? Perché c'era, entrava e usciva quel cane che ci aveva. Ma non c'ha mai buon piedi, cazzo, ma era una cosa allucinante. Era una cosa allucinante. Io sono andato a furare. C'era un bel gente, lo conosceva, una bravissima persona, di buon cuore, di tutto di più. Quando lo chiamavo, mi diceva, sali che c'ero io, non la comprare, sali che te lo do io, allora salivo, se no si offendeva. Ancora ci sei? Era di Sassari, Pinaglio. Sì, nativo di Sassari, una vita larghera, ma nativo di Sassari. Sono aperto un attimino alla porta, capito? Di casa. Ci sono! Purtroppo sono un po' vai e vieni perché stavo facendo cosa, sono da solo. E fai altro tranquillo, io ti saluto che sto andando via. Ciao Claudio, dai, ci sentiamo, alla prossima. Io vado già a portare a testa. Ciao. Anch'io, dai, trattengo qualche minuto con Antonio, poi anch'io scappo, dai, che vado a vedere il MTG. Ciao, non tengo questa tornata, allora. A me? Non la già tornata io, non a tu. Prova. Vuoi che te la mandi? Sarà la ventola, cosa ne so, io non le ho alternate tanto. Sono in cuffi. La ventola è la ventolina del K. La ventolina del K è tu. Ma non è alternata. Prova, Claudio, a non parlare a schiacciare la portante. Sembra un'alternata, in effetti sembra un'alternata, magari la ventola, però sembra il rumore dell'alternata. No, sono i cuffi, io sento la ventolina girare, ma è anche abbastanza silenziosa. Sì, la ventolina, ci devo mettere l'orecchio io. Cazzo di sensibile questo MC60. È sensibile, è stato sempre sensibile. Vabbè, buonanotte a tutti, dai, ci sentiamo. Ciao, riprendi Anto. Sì, te l'ho mandata però, per fatelo sentire. Ehi, se quello lì poi lo sento, ma... io sento la ventolina girare, ma ci mi devo mettere l'orecchio, cazzo. La sto mandando via WhatsApp, me. Andiamo a vedere. Non so cosa dirti, io non sento niente, sono in cuffie. Io ho le cuffie. Aspetta che me l'ascolto, vabbè? Sì. Sono mandata adesso. Vabbè, sentitela! Sentitelo? Però non è il rumore di alternato ancora. Non si intendia mai il rumore. Cappa! Ci sentiamo questi giorni, cioè, se domani si deve lavorare. Ehi, va bene, dai, ti saluto, tu, stammi bene, buon tutto, alle prossimine, ciao. Ciao. 10 c'è qualcuno? Sezione 10 c'è qualcuno? E tu entri sempre che andrò niente andiamo a mangiare. No, l'ho sentito di sfuggita perché ero da un'altra parte, ho acceso il 10, ho visto, poi mi sono spostato, alle 3 c'è se c'è qualcuno, beh là. Io, a posto. Ma senti la ventolina tu, Rob, girare. No, non è ventolina, è rumore di alternata. Muovi un po' il cavo del microfono, magari non sta toccando bene, è già successo altre volte. Guarda così, lo sta facendo così. No, adesso è diminuito parecchio, ma non parlare, manda solo portante. No, adesso non c'è più, adesso sente dal fondo, ma penso sia una ventola o qualcosa. Sto cazzo di carretto, aspetta che lo cambio. Cappa. Guarda a vedere se senti. Sì, adesso ce l'hai là. Poco fa quando appena sono entrato era forte, poi ha toccato qualcosa e è scomparsa, adesso ce l'hai di nuovo. E così c'è? Sì, ma non è che si sta salendo l'alimentatore, là. No, non penso. Che male stanno andando in crisi l'alimentatore, da quanti ampere è quello? 60 ampere. Allora non è quello, però prova adesso, riparla senza parlare, manda portante. Sì, c'è di meno, però ce l'hai sempre. Boh, cazzo di aspetta un attimo. Adesso di meno. E adesso? C'è sempre. Dove palle, questo robot. Se sto avvitando la ghiera. Non riesco a capire. Prova a girare il filo dall'altra parte, il filo del microfono, magari sei troppo amplificato per quello che ti sta rientrando qualcosa. O sopra. Metti la mano sopra il coperchio del baracchino. Guarda. E adesso? Niente, è sempre uguale. Cosa c'è? Ma poco fa cosa avevi toccato? Era quasi scomparso. Il cavo? Sto spostando il cavo. Vediamo da qua. Ecco qua. No, si sente. A momenti è diminuito, ma poi è sempre presente. La voce si sente chiara, nessun problema, però c'è questo... Aspetta, cambiamo microfono. Vediamo con questo. Questo è perfetto. Questo è l'altro MC60. La modulazione com'è? Buona? È leggermente diversa, ma è ottima, va benissimo. Però non c'è quel ronzio. L'altra era questo rumore di sottofondo. Cioè qua non sento niente. Aspetta che cambio ancora microfono. C'è un po' di propagazione oggi. Ah, vabbè, ho sentito mica, c'è un apparecchio acceso. Sono entrato a salutarti. Ciao Robè, ciao, che devo fare roba, ci sentiamo. Ehi, certo, ben sentito. No, sono con Claudio, c'è questo ronzio, sta cambiando il microfono. Sì, l'ho fatto sentire io, dai, ci sentiamo, che devo fare roba, ciao. Vai qua. Guarda, a vedere. Ti voglio capire se è la base o il microfono. Niente senti così. No, così è perfetto, nessun disturbo. Quindi è il microfono. Allora non è il microfono, è la base. Ma hai provato a muovere l'attacco, cioè dove attacca lo spinotto sulla base del microfono, anziché quello della radio? Sì, provato. Ma poi cambio cavo. C'è magari qualche massa interna, qualche cagattina che male. Ah, un attimino al telefono, scusami un attimo. Mi hai chiamato qua? No, stavo provando se c'erano problemi. Quindi è la base, bisogna controllarla, male c'è qualcosa di sporco. Così va bene? Sì, perfetta, nessun problema. Ma anche con l'altro, quando sei entrato, poi hai toccato qualcosa, era scomparso il rumore. Magari qualche contatto, magari il PTT che non sta toccando bene, perché magari c'è qualche massa sul PTT, non lo so. Vedi un po', sulle lamelle me. Lo sto controllando, Rob. Ci ho cambiato la base da un l'uno all'altro, perché quello lì non lo usa mai, è quello che era dentro l'armadio, magari era sporco. Comunque mi confermi che così va bene? Perfetto, la tua voce, la solita tua voce, senza nessuna imperfezione di rumore di fondo. Prima invece era abbastanza presente. Ti capivo quello che dicevi, però si sentiva proprio... Vabbè, adesso sentirei la ventola, non lo so se la senti perché è molto silenziosa. Non penso che si senta. No, no, quasi impercettibile, niente, non è, come che non esista. L'alternata è sparita, la modulazione è uguale, quindi adesso allora, il microfono è quello, il tono è quello che stavo usando prima. No, questa è la tua voce tranquilla, la solita che ti sentiva. Cos'è il 14 questo? No, questo è il 44. Ah, c'è anche il 44, non lo sapevo. Grazie, vabbè, aveva ragionato lì. Tu ne hai girato talmente tanti, ma il 14 ce lo utilizzi, lo stai utilizzando? Certo che sì, intanto non cambia niente, ti posso commutare, la modulazione è sempre quella perché anche lì c'è il 60. Quindi non si nota la differenza, vabbè, sono quasi uguali come radio, come modulatore, no? Penso cambi ben poco, forse col 43 qualcosa cambiava. Sì, beh, il 43 è diverso come timbrica, però il 140 e il 440 perlomeno io quando li uso non se ne accorge nessuno, a volte il cambio non se ne accorge nessuno, però chiaro, va bene, per l'uso che ne facciamo, ottimo per la truppa. Quindi non si sente più niente, va bene. Il segnale è aumentato dall'altra volta, prima erano 9,20, adesso sono sicuramente più alto, prima erano 10 watt, adesso ne ho 30. E 9 più 25 qua è il segnale, con i picchi positivi. E già va bene, dai. Ottimo per la truppa, ottimo per la truppa. Tu invece come mi ascolti, come livello di segnale? 9, quasi 9 più 30, più o meno uguale. Sì, abbiamo più o meno. La modulazione, il livello va bene, classico. Allora, la tua, quella di sempre. Perché qua sono al minimo, sono meno di 1 qua come livello microfonico, e sono 40-50 cm dal microfono. E io lo stesso, io ce l'ho a 1, se lo aumento va in saturazione, capito? Sto mettendo a posto questo calvetto, vabbè. Che palle, la roba quando non la usi si rovina, cazzo, questo 1060, non sai quanti anni era dentro l'armadio, oh, io. Ma pure due le devi alternare, io infatti adesso di 1060 ne ho 1, 2, 3, 4 1060, tutti collegati alla radio, per non sbagliare, uno al 790, uno al 440, uno al 711 e l'altro al ATS 2000. Nelle 940 c'ho il palmarino, ma già basta il microfono, la radio vieni tu, c'ho tutta la radio con i suoi microfoni che sono l'ideale, io sono kenwoodiano come te, penso, abbiamo tutto Kenwood, a parte lo Iaesul FT3000, tutto Kenwood. Chissà chi te li avrà, ti messi 60. Te ne ho fatto prendere anche un'altra se non sbaglio, no? Poi me ne hai dato un paio, tre me ne hai dati tu, se non sbagliare. Due me li hai fatti prendere tu, quindi ne avevamo 5. A Vuglia. Poi radio, per non sbagliare, mi pare sono ridui, da TS2000, 711, cosa c'ho? 440, vabbè, quello è lo stesso, 440 e 140, il primo, questo me l'avevi dato tu forse, il 440 oppure l'avevo cambiato, vabbè, perché ne ho avuto due di 440, poi avevo il 140, forse l'avevo dato a te, il 140 uno a te l'avevo dato, mi pare, non è quello che c'ho sempre, sempre io ce l'ho quello. Adesso c'ho il gemellino, l'811, ma ce l'ho più che altro per avere il gemello, ma non è che ci vai in quella banda lì, preferisco andare con il capo, che non vede nessuno, per non sbagliare. Sì, 790, quando c'è 5 minuti di tempo, Mari, non adesso che Mari andiamo a mangiare, facciamo le prove in 144 e in UHF, vediamo un pochettino, così mi dici i livelli, se cambia qualcosa e vediamo un po'. Guarda, io l'ho avuta quando avevo doppio zero, quella radio, 790, ed era una radio eccezionale, capito? Solo che non aveva i toni, poi non so se li hanno messi, cosa hanno fatto, eccetera. Usavo in VNU, la potenza è che non era molto alta, poi mi era capitato tramite il padre di Giancarlo l'occasione di prendere i gemellini della ICOM, avevo versato quella e avevo preso i gemellini della ICOM e dall'ICOM non mi sono più staccato, capito? Ho sempre avuto ICOM sia in V che in U, però inizialmente io avevo tutto Kenwood, tutto tutto che sia HF, VHF, UHF. Non lo so, ma poi modulatori HF, per me sono quelli che rendono più di tutti, poi magari sono questioni di gusti, però quando sento una modulazione HF è inconfondibile. No, quello che ho io l'ho preso perché c'hai sia i tuning come opzionale che la noppia, però è una delle ultime versioni, probabilmente li mettevano di serie, e più c'ha la scheda dei 1200 di serie, non è di quelle applicate, infatti ci sono tre ingressi d'antenna, l'ho attaccata alla X7000, così dedico quell'antenna lì solo per questo. Poi un'altra domanda, quell'antennina che mi avevi dato tu, quella piccolina, cos'è, un X30 o X50? Cla? No, X50. E quella è una B-banda, così è? Uguale, roba, sono tutte B-banda, dalla X20, X30, X50, X300, cioè sono tutte B-banda. Perché quella ho messo il diplex e l'ho messa un passaggio all'811 e l'altra uscita al 711 con un'unica calata, così servo due radio, per cui non c'è rischio che faccia danno. C'avevo il dubbio che fosse monobanda. No, è bibanda, è fatto bene, anche io ce l'avevo così, con doppio essere, quando ho iniziato io ci avevo il 711 e l'811, perché l'ho tratto tutto che anche VNU. Poi però hanno iniziato i ponti con i toni e quello e quell'altro alla fine li ho dovuti dare perché non hanno schedatoni e sono passato al 790, poi 790 sono passato lì come ancora ce li ho. L'unica, l'820H, che praticamente è dopo il 711, 811, poi hanno fatto il 910. Va bene, dai, andiamo a pappare, che è? Ehi, 2:15 sono, dai, ok, la chiacchiera ce l'abbiamo fatta, sono tutta la sera qua, stavo provando il radio con quelle vintage, con Antonio, mi sono messo a posto un po' di roba qui, poi ho fatto due chiacchiere con Gianni, è entrato Carlo, c'era anche Carlo. Vabbè, ho visto che sta ripopolando, dai, come dicevi tu, ci sono animatori nuovi, ci sono, dai, basta trascinatori e qualcuno si aggrega. Ma io già lo sapevo, se entro io che sono più frequente, vi aggregate anche voi, capito, Radio Mattore, entrato Gianfranco, stasera, Fabrizio non sta molto bene, che è un po' acciaccato, ma penso che era in ascolto, ben ascolto, ma insomma, facciamoci sentire almeno noi, giusto per fare un po' di cose, o se no veramente muore del tutto questa frequenza, perché non stava entrando più nessuno. Va bene, Robin Hood, domani se ce la faccio posso prendermi quel foglio, asciugato si è? Sì, l'hai asciugato anche dalla sera, l'ho messo nel cassetto, ricordati, quando vuoi basta te lo bili. Ci vediamo, dai, anche io faccio un altro giro da un'altra parte, perché sto facendo un diploma, penso che sia già arrivato ai punti, li devo aver già fatti, c'è il diploma, prima ero bronzo, argento, adesso sono passato oro, se me li hanno assegnati i punti, dai, così ci vediamo, ci sentiamo domani eventualmente, ciao, buona cena e buon tutto. Ciao, vabbè, quindi confermi, lascio stare questo il microfono. Una bomba perfetta da spaccatutto, dai, no, non è disturbante, è bella chiara la modulazione, non è di quelle fastidiose, è la tua solita, ti ascolto con la tua parata esterna pulita senza nessun problema. Perfetto, l'importante è che non ci siano rumori sottofondo. D'accordo, ciao.